Capitolo 19. Interludio. Se penso che oggi è il mio 20° compleanno e che mi sono lasciata per sempre alle spalle i miei anni verdi, sospirò Anna raggomitolata sul tappeto accanto al fuoco, mentre zia Jamesina leggeva sulla sedia a dondolo, Stella e Priscilla erano andate a una riunione del comitato e Phil era corsa ad agghindarsi per una festa. Suppongo che provi una certa amarezza, replicò zia Jamesina. Gli anni che precedono i 20 sono una piacevole parte della vita. Io sono felice di non averli ancora superati. Anna rise. E non li supererai mai, zietta. Tu avrai 18 anni finché ne compirai 100. Sì, sono dispiaciuta e anche insoddisfatta. Molto tempo fa, la signorina Stacy mi disse che a 20 anni il mio carattere sarebbe stato formato nel bene o nel male. Non mi sembra che sia così per me. Perdo acqua da tutte le parti. Come tutti quanti, commentò allegramente zia Jamesina. Il mio è pieno di falle, centinaia. La tua signorina Stacy intendeva probabilmente dire che a 20 anni il tuo carattere si sarebbe volto in maniera stabile in una o nell'altra direzione e che in quella si sarebbe sviluppato. Non preoccuparti di ciò, Anna, fai il tuo dovere nei confronti di Dio, di chi ti sta vicino e di te stessa e vivi felice. Questa è la mia filosofia personale. E ha sempre funzionato egregiamente. Dove va Phil stasera? Va a ballare e per l'occasione indossa l'abito più delizioso che si possa immaginare, in seta, giallo crema e rete di pizzo. Si adatta a meraviglia alla tinta dei suoi capelli e della sua pelle. C'è una certa magia nei termini seta e merletto, non è vero? Domandò zia Jamesina. Il solo suono di queste due parole mi fa sentire come se danzassi. E poi seta gialla, mi fa pensare a un abito color del tramonto. Ho sempre desiderato un abito in seta gialla, ma prima mia madre e poi mio marito non hanno voluto saperne. La prima cosa che farò entrando in paradiso sarà indossare un abito di seta gialla. Phil entrò circondata di gloria, nel bel mezzo della cascata di risate di Anna, e si scrutò nel lungo specchio ovale appeso alla parete. Uno specchio gentile rende decisamente amabili, sentenziò. Quello della mia stanza mi fa sembrare verde. Sono tutta bella, Anna? Sai davvero quanto sei bella, Phil? Domandò Anna con schietta ammirazione. E come se lo so, a che servono altrimenti gli occhiali e gli uomini? Ma non è questo che intendevo. Non ho l'orlo tirato su, la mia gonna è dritta e la rosa non starebbe meglio più bassa? Temo sia troppo alta, mi fa sembrare un coniglio, ma io detesto le cose che mi fanno solletico alle orecchie. Sei perfetta da ogni punto di vista. È quella tua aria da damina del sud che è straordinaria. Anna, c'è un particolare di te che adoro ed è la tua generosità. Non c'è un briciolo di invidia mai in te. E perché mai dovrebbe essere invidiosa? Brontolò zia Jamesina. Non sarà bella come te, ma ha un naso 100 volte più grazioso. Ah, oh, il mio naso mi è sempre stato di grande conforto, confessò Anna. E a me piace da morire l'attaccatura dei tuoi capelli sulla fronte, Anna, e quel ricciolino che sembra sempre cadere senza cadere mai. È davvero delizioso. Ma quanto ai nasi, il mio ha sempre destato in me grosse preoccupazioni. Vedo con chiarezza che quando compirò 40 anni sarà un naso burn. Come pensi che sarò a 40 anni, Anna? Una vecchia e matronale madre di famiglia, rise Anna. E invece no, replicò Phil, sedendosi comoda in attesa della sua scorta. Joseph, bestiola cara, non azzardarti a saltarmi in grembo. Non voglio andare al ballo cosparsa di peli di gatto. No, Anna, no. Io non sarò mai matronale. Sposata sì, matronale no. Sposata ad Alec o ad Alonso? Indagò Anna. Ah, uno dei due, sospirò Phil. È che non so mai decidermi. Non deve essere così difficile, la stuzzicò zia Jamesina. Oh, oscillo come un'altalena da quando sono nata, zia, e non c'è nulla che possa guarirmi. Dovresti darti una quadratura, Filippa. Oh, certo, che sarebbe meglio se avessi la testa a posto, consentì Filippa, ma sarebbe assai meno divertente. Per quanto concerne Alec e Alonso, se tu li conoscessi, capiresti perché è tanto difficile scegliere. Sono identici per carineria. E allora, scegline uno più carino, suggerì zia Jamesina. C'è quel senior così preso di te, Will Leslie, mi pare. Ha degli occhi così grandi, belli e dolci. Oh, sono un po' troppo grandi e un po' troppo dolci, ribatté crudelmente Phil. Sembrano quelli di una mucca. E che ne dici di George Parker? Oh, non c'è nulla da dire su di lui, se non che sembra sempre inamidato e stirato. Ma Allworthy, allora? Non puoi trovargli neppure un difetto? No, se non fosse povero. Io devo sposare un uomo ricco, zia. Questa è una qualità, insieme alla bella presenza a cui non posso rinunciare. Sposerei Gilbert Blythe, se fosse ricco. Ah, davvero? Si risentì Anna. Questa idea proprio non ci garba, anche se non vogliamo Gilbert per noi, oh no, la canzonò Phil. Ma non parliamo di argomenti spiacevoli. Un giorno o l'altro dovrò sposarmi, penso, ma faccio in modo di rinviare quel giorno il più tardi possibile. In ogni caso non devi sposare un uomo senza amore, suggerì zia Jamesina. Phil canterellò scherzosamente. Oh, cuori al mondo antico, innamorati! Fuori di moda siete diventati. Poi aggiunse: Ecco la carrozza, me ne vado. Addio, amiche mie, all'antica. Quando Phil se ne fu andata, zia Jamesina guardò solennemente Anna. Quella ragazza è graziosa, dolce e di buon cuore, ma non diresti da come parla che è un po' svitata, Anna? Oh, non lo penso assolutamente, replicò Anna nascondendo un sorriso. È solo il suo modo di parlare. Zia Jamesina scrollò il capo. Bene, lo spero proprio, Anna, perché le voglio bene, ma non mi riesce di capirla. Mi lascia perplessa, non somiglia a nessuna delle ragazze che ho conosciuto o che ero io stessa. Quante ragazze eri tu, zia Jamesina? Oh, una mezza dozzina almeno, mia cara. Capitolo 20. Gilbert si dichiara. Questo è un giorno triste e banale, si dolse Phil, allungandosi pigramente sul divano dopo aver preventivamente spodestato due gatti indignatissimi. Anna alzò gli occhi dal circolo Pickwick. Ora che gli esami primaverili erano terminati, si concedeva una pausa di divertimento leggendo Dickens. È stato un giorno banale per noi, ribatté pensierosa, ma per qualcuno è stato un giorno magnifico. Qualcuno è stato felice in modo davvero indimenticabile. Forse in qualche parte del mondo oggi è stato compiuto un grande gesto, o è stato scritto un grande poema, o è nato un grande uomo, una grande donna, e qualche cuore è stato spezzato, Phil. Ma perché hai rovinato questo tuo bel discorso con quest'ultima frase, Anna? La rimproverò Phil. Non mi va di pensare a cuori spezzati o a cose sgradevoli. Credi di chiudere gli occhi per tutta la vita su ogni genere di spiacevolezze, Phil? Oh cielo, no! Non sto combattendo proprio ora contro una cosa spiacevole come quella di Alec e Alonso. Come la chiameresti tu, visto che mi sta rovinando la vita? Non si può mai parlare seriamente con te, Phil. E perché dovrei? C'è troppa gente che lo fa. Il mondo ha bisogno di persone come me, Anna, giusto per essere un po' più allegro. Sarebbe un posto terribile se tutti fossero intellettuali e seri e immersi in profonde e mortifere meditazioni. La mia missione è, per dirla con Josiah Allen, incantare e sedurre. Adesso confessa. La vita a Patty's Place l'inverno scorso non è stata più piacevole e brillante perché c'ero io a tirare su i vostri stanchi spiriti? Sì, è vero, consentì Anna. E tutte voi mi amate, compresa zia Jamesina, che pure crede che io sia suonata. E allora perché devo industriarmi a essere indifferente? Tesoro, ho talmente sonno. Ieri sono stata sveglia fino all'una per leggere una storia di fantasmi da fare accapponare la pelle. L'ho letta a letto e credi che dopo averla finita avrei osato uscire dalla mia tana per spegnere la luce? Oh no! Se per mia fortuna Stella non fosse rientrata tardi, la lampada avrebbe continuato a bruciare vivace e brillante per tutta la notte fino al mattino. Quando ho sentito Stella, l'ho chiamata e le ho spiegato la situazione e le ho chiesto di spegnere la luce per me. Sono sicura che se l'avessi fatto io, qualcuno mi avrebbe afferrato per i piedi mentre rientravo tra le coperte. Dovevo proprio tenere i piedi al riparo. Tra l'altro, zia Jamesina ha deciso che fare quest'estate. Rimarrà qui. So che lo fa per via dei gatti, anche se dice che è troppo fastidioso per lei riaprire la casa e che detesta le visite. Che stai leggendo? Il Circolo Pickwick. Quello è un libro che mi fa sempre venire una fame da lupi, esclamò Phil. Vi si parla troppo di cibo. I personaggi si rimpinzano continuamente di prosciutto, uova e pancia al latte. In genere, dopo aver letto Pickwick, vado a fare razzia in dispensa. Il semplice pensiero mi fa venire in mente che ho una fame da morire. C'è qualche cosina buona in dispensa, regina Anna? Ho fatto una crostata di limone proprio stamane. Prendine un pezzo. Phil si slanciò in dispensa e Anna scese nel frutteto in compagnia di Rusty. Era una sera rugiadosa e profumata dei primi tempi di primavera. C'era ancora neve nel parco e un piccolo mucchio grigiastro indugiava sotto i pini del viale, che lo proteggevano dal sole di aprile. Rendeva perciò fangosa la via e gelida l'aria della sera, ma nei punti più riparati l'erba cresceva di un tenero verde e Gilbert trovò dei pallidi e dolci biancospini in un angolo nascosto. Con le mani colme di quei ramoscelli salì attraverso il parco. Anna, seduta nel frutteto su un grande sasso grigio, era assorta nella contemplazione di uno spoglio ramo di betulla che si stagliava contro il pallido rosso del tramonto, perfetto nella sua bellezza. La fanciulla stava costruendo un castello in aria, un favoloso castello, con cortili assolati e stanze sontuose, pervase di profumi arabi, sul quale lei regnava regina e castellana. Aggrottò le ciglia quando vide Gilbert venirle incontro attraverso il frutteto. Da molto tempo faceva in modo di non rimanere mai sola con lui, ma adesso l'aveva colta di sorpresa e persino Rusty l'aveva abbandonata. Gilbert sedette accanto a lei sulla pietra e le tese i rami di biancospino. Non ti ricorda la casa e le gite dei giorni di scuola, Anna? Anna li prese e vi immerse il volto. In questo preciso istante mi trovo nelle lettere di Silas Sloane, sussurrò rapita. Suppongo che ci sarai davvero tra poco. No, non per almeno 15 giorni. Prima di tornare a casa ho promesso a Phil di andare con lei a Bolingbroke. Tu arriverai prima di me ad Avonlea. No, non ci sarò per tutta l'estate, Anna. Mi hanno offerto un lavoro al Daily News e l'ho accettato. Oh, mormorò Anna con voce indistinta. Si domandò come potesse essere un'intera estate senza Gilbert. La prospettiva non le piacque. Bene, concluse con voce piatta. È una buona occasione per te, naturalmente. Oh, sì, ci ho tanto sperato. Mi sarà utile per l'anno prossimo. Non devi lavorare troppo, disse Anna, senza avere una chiara sensazione di quanto stesse dicendo. Sperava vivamente che Gilbert se ne andasse. Hai studiato molto quest'inverno senza prenderti un attimo di sosta. Non è una sera deliziosa? Sai che proprio oggi ho trovato un cespo di viole bianche sotto questo albero contorto? Mi sentivo come se avessi scoperto una miniera d'oro. Tu trovi sempre delle miniere d'oro, disse Gilbert, anche lui con aria assente. Andiamo a vedere se possiamo trovarne altre, suggerì Anna con fare appassionato. Chiamo File? No. Non pensare a Phil e alle violette adesso, Anna, replicò calmo Gilbert, imprigionandole la mano in una stretta da cui lei non si poté liberare. C'è una cosa che devi sapere. Oh no, non dirmela, gridò Anna con occhi imploranti. No, te ne prego, Gilbert. Devo. Le cose non possono andare avanti così ancora a lungo. Anna, ti amo. Tu lo sai. Io non posso dirti quanto. Mi prometti che un giorno sarai mia moglie? Io non posso, si dolse Anna. Oh, Gilbert, hai rovinato tutto. Non ti importa niente di me? Domandò Gilbert dopo una pausa carica di sofferenza, durante la quale Anna non ebbe il coraggio di alzare il capo. No, non in questo modo. Tu sei molto importante per me, ma come amico, io non ti amo, Gilbert. E non puoi darmi nessuna speranza? per il futuro? No, non posso, esclamò Anna con la disperazione nella voce. Io non potrò amarti mai, mai, mai in quel modo. Gilbert, non devi mai più parlarmi di questo, mai. Ci fu un'altra pausa, così lunga e terribile che Anna fu indotta infine ad alzare lo sguardo. La faccia di Gilbert era bianca, le labbra erano livide e gli occhi. Anna ebbe un brivido e distolse lo sguardo. Non c'era nulla di romantico in quella dichiarazione. Una proposta d'amore può essere grottesca o orribile. Lei non avrebbe mai dimenticato il viso di Gilbert. Avrebbe potuto. C'è qualcun altro? Domandò infine lui con una voce sottile. No, no! Negò appassionatamente Anna. Non mi piace nessuno in questo modo e tu mi piaci più di chiunque altro al mondo, Gilbert. E noi dobbiamo continuare a essere amici, Gilbert. Gilbert ebbe un lieve sorriso amaro. Amici? La tua amicizia non mi basta, Anna. Io voglio il tuo amore e tu mi dici che non potrò mai averlo. Oh, mi dispiace. Perdonami, Gilbert. Fu tutto ciò che Anna riuscì a dire. Dov'erano? Oh, dov'erano tutti i romantici, toccanti discorsi con cui lei, nella propria immaginazione, avrebbe rifiutato le proposte dei suoi ammiratori? Gilbert le lasciò dolcemente la mano. Non c'è nulla da perdonare. Ci sono stati momenti in cui ho pensato di essere ricambiato. Mi sono sbagliato, ecco tutto. Addio, Anna. Anna andò in camera sua. Si sedette accanto alla finestra affacciata sui pini e pianse lacrime amare. Si sentiva come se qualcosa di estremamente prezioso se ne fosse andato dalla sua vita. Era l'amicizia di Gilbert, naturalmente. Oh, perché? Perché avrebbe dovuto perderla in quella maniera? Che cosa è successo, tesoro? Si informò sollecita Phil, entrando nel chiarore lunare. Anna non rispose. In quel momento desiderava che Phil fosse lontana 1.000 miglia. Scommetto che hai appena rifiutato Gilbert Blythe. Sei una sciocca, Anna Shirley. Pensi che sia sciocco rifiutare di sposare un uomo che non amo? Domandò Anna freddamente, punta sul vivo. Tu non sai riconoscere l'amore quando lo vedi. Ti sei costruita qualcosa nella tua fantasia che tu ritieni amore e pretendi che gli somigli nella vita reale. Cielo, questa è la prima cosa sensata che ho detto in vita mia. Come ci sono arrivata? Phil, la implorò Anna, ti prego, va via e lasciami sola per un po'. Il mio mondo è caduto a pezzi, devo rimetterlo insieme. Senza Gilbert? Replicò andandosene Phil. Un mondo senza Gilbert. Anna ripeté tremando quelle parole. Non sarebbe stato un mondo di solitudine e abbandono. Bene, era tutta colpa di Gilbert. Lui aveva sciupato la loro bella amicizia e lei doveva imparare a vivere senza di lui.